Ogni nazione, ogni cultura ha le sue ricorrenze, sia religiose sia civili. Mentre quelle religiose a volte sono uguali per tutte le nazioni, come il Natale o la Pasqua, quelle civili sono propriamente del popolo stesso. In effetti, mentre la Francia ricorda il 24 agosto l'anniversario della liberazione dell'invasione tedesca, noi italiani ricordiamo questo giorno il 25 aprile. Anche l'America ha un grande giorno di festa civile, e cioè il giorno del ringraziamento che cade l'ultimo giovedì di novembre. Nello stesso modo, il popolo di Israele ha le sue feste civili e religiose, con la differenza che molte combaciano nello stesso giorno. Così, il 14 del mese di Abib, il primo mese religioso, chiamato poi in seguito Nisan, che corrisponde al nostro mese di aprile, ancora oggi Israele ricorda il giorno nel quale, quasi 4.000 anni fa, è stato liberato da un tempo di schiavitù in Egitto, durato 400 anni. Questo avvenimento è stato talmente straordinario che l'Eterno stesso, i profeti e in seguito gli apostoli lo hanno ricordato del continuo. E è stato detto molte volte che il popolo di Israele simboleggia in qualche modo il cristiano, il quale a sua volta è stato liberato dalla schiavitù di Satana e del peccato. Così, il cammino di Israele verso la terra promessa simboleggia il cammino del cristiano verso la vita eterna. Ne consegue che, come conclusione inevitabile, il modo di agire dell'Eterno verso Israele sia nel bene sia nel male rispecchia il suo modo di agire nei confronti del cristiano. Perciò queste riflessioni toccano da vicino ogni figlio di Dio più di quanto non si pensi. Nel Salmo 77 al versetto 19 leggiamo un'espressione che di per sé non sembra dire molte cose, ma ha un contenuto morale e spirituale non indifferente. La tua via fu in mezzo al mare, il tuo sentiero in mezzo alle grandi acque, e le tue orme non furono riconosciute. Il salmista ricorda l'avvenimento del passaggio di Israele attraverso il Mar Rosso e lo esprime con rara sinteticità. Perché il suo scopo non era quello di raccontare tutti i particolari del passaggio del Mar Rosso, ma quello di evidenziare un principio divino che non deve essere dimenticato, e cioè che le difficoltà e le sofferenze sono la via usata per eccellenza da Dio per attirare l'uomo a Cristo e dimostrare le sue caratteristiche. Non è certamente una novità presentare le difficoltà come strumento di Dio. Ma non è neppure una novità sapere che dimentichiamo le vie di Dio, perciò è salutare e utile prendere in esame ciò che ha detto il salmista. Quando l'Eterno liberò il popolo di Israele, in seguito non lo condusse per una strada maestra grande e breve. Così leggiamo nel libro dell'Esodo. Quando il Faraone lasciò andare il popolo Dio, non lo condusse per la via del paese dei Filistei, benché fosse la più breve, poiché Dio disse: perché il popolo non si penta quando vedrà la guerra e non ritorni in Egitto. Ma Dio fece fare al popolo un giro per la via del deserto verso il Mar Rosso, e i figli di Israele salirono armati dal paese d'Egitto. Esodo 13.1-7.18. L'Eterno mise subito in evidenza il suo metodo di agire. Andava contro ogni logica. Molto probabilmente la maggioranza degli israeliti non accettarono il metodo dell'Eterno, e lo dimostra il fatto che poco dopo si lamentarono. Quante volte Dio ci conduce per delle strade più lunghe e tortuose, ed ecco che ci poniamo degli interrogativi simili a quelli posti dai giudei davanti alla tomba di Lazzaro. Non poteva costui che aprì gli occhi al cieco far sì che questi non morisse? Ma i giudei, come gli israeliti, non sapevano che l'Eterno aveva qualcosa di meglio nei suoi piani, non sapevano che l'Eterno Dio avrebbe rivelato un aspetto del suo essere. Abbiamo letto che la via di Dio fu in mezzo al mare. Perché sottolineare questa frase o questa verità? Perché con il passare del tempo ci rendiamo conto che il più grande combattimento del cristiano è quello di accettare le vie di Dio, e che queste vie siano in mezzo al mare, cioè nella difficoltà. Il nostro desiderio è avere sentieri diritti e piani, senza tanti problemi e difficoltà. Desiderio che si addice ad una società che ha quasi limitato ogni sforzo e sofferenza fisica. Di recente sono andato dal dentista per togliermi una radice di un dente ed ho ricordato al mio dentista Come tempo fa questo non fosse possibile, e con quanto dolore venivano estratti i denti interi. E per di più, senza nessuna puntura antidolorifica. Anzi. Solo qualche anno fa era dolorosa la sola anestesia, mentre ora non si sente neppure quella. Quanto dolore è stato tolto. Dobbiamo essere riconoscenti al nostro Dio per questo progresso, ma contemporaneamente ho il presagio che tutto questo benessere sia controproducente per prepararci a tempi difficili, sempre se crediamo, secondo la parola di Dio, che il mondo stia andando verso un periodo difficile. Forse non tutti sono d'accordo che stiamo andando verso un periodo critico per l'umanità, ma non possiamo nascondere certi aspetti preoccupanti come il buco nell'ozono che brucia il verde, che tutto è inquinato, che nel mare e sulla terra stanno sparendo delle razze di animali. Se questo mondo sta diventando una tomba per gli animali e le piante, come può non esserlo per l'uomo? Ma il salmista, nel dire che il sentiero di Dio è in mezzo alle grandi acque, vuol significare anche meno è? Forse soprattutto meno che le vie di Dio passano sì attraverso grandi difficoltà, ma in queste difficoltà egli mostra la sua onnipotenza, il suo amore, la sua giustizia. In qualsiasi situazione il credente si trovi, non deve dimenticare che le difficoltà dell'uomo sono un'opportunità di Dio. In effetti, quando vediamo tutto il nostro peccato, quando ci sentiamo spregevoli agli occhi di Dio e degni di ogni condanna, ecco che possiamo guardare a Lui come il Salvatore. Quando vediamo gli insuccessi nella nostra vita, quando continuiamo a ripetere gli stessi errori nonostante le nostre buone intenzioni, ecco che possiamo guardare alla grazia di Dio. Quando le difficoltà sono presenti e non sostenibili, ecco che possiamo guardare a Dio come il nostro liberatore. Quando il compito al quale siamo chiamati lo vediamo troppo gravoso, possiamo sperimentare la potenza di Cristo. Quando moriamo a noi stessi, alle nostre ambizioni, alla nostra volontà, sperimentiamo che la vita di Cristo vive in noi. La via di Dio è in mezzo al mare, i suoi sentieri sono in mezzo alle grandi acque. Perché nelle difficoltà e impossibilità possiamo realizzare la presenza di Dio e alcuni aspetti del suo carattere. Il Dio trino dei cristiani in genere, quando vuole fare una cosa meravigliosa, comincia con una difficoltà, ma quando vuole fare una cosa più che meravigliosa, comincia con una impossibilità. Questa è la via di Dio per eccellenza. Stavo andando con una sorella in fede ad un incontro in un paese vicino a Milano. Poiché dovevamo prendere una coincidenza, siamo scesi ad una stazione e, dato mancavano pochi muniti, una volta preso il biglietto siamo corsi a prendere il treno, senza pensare di obliterare il biglietto. Quando il controllore ci chiese il biglietto, ci venne in mente della nostra dimenticanza, ed io, che ero sprovvisto di denaro, prima di consegnare il biglietto, l'ho guardato per verificare se effettivamente non lo avevo obliterato. Ad un tratto ho notato con grande stupore che il biglietto era obliterato e l'ho consegnato al controllore dicendo che il biglietto era in regola. Il controllore lo guardò, disse che tutto era a posto e in seguito lo convalidò, mentre la mia sorella in fede pagò la multa. Il giorno dopo, nel riflettere a questo episodio e ancora incredulo a quello che era successo, ho voluto controllare il biglietto e con mia sorpresa ho notato che il biglietto non era affatto obliterato. Credo di possedere ancora oggi l'unico biglietto del treno convalidato senza essere stato obliterato. L'episodio del biglietto non è nulla in confronto a centinaia e centinaia di testimonianze di figli di Dio che hanno sperimentato grandi difficoltà e contemporaneamente anche grandi liberazioni da parte di Dio. Sì, se la via di Dio è in mezzo al mare, egli apre il mare per coloro che confidano in Lui. Eppure, come disse il salmista, le sue orme non vengono riconosciute. In effetti, come Israele fu ingrato per la liberazione, come fu ingiusto nel lamentarsi del continuo per le vie di Dio, anche molti di coloro che hanno posto fede in Cristo hanno delle inutili ed inopportune lamentele. Vedono ogni ostacolo e ogni sofferenza come un intralcio alla vita cristiana e un impedimento alla crescita. E lo dimostrano le molte preghiere fatte per avere una vita più facile. Ma la via di Dio è in mezzo al mare. E dimentichiamo, io per primo, che la vita che conduce al cielo è stretta e angusta, cioè disagevole, e questo perché possiamo conoscere sempre più la persona di Cristo. Nel libro di Roy Hession Vorremmo vedere Gesù si trova una stupenda riflessione in merito a ciò, che arriva direttamente al cuore. Gesù permette che siamo frustrati e delusi nei nostri sforzi tesi a raggiungere questa o quella meta, affinché egli possa venirci finalmente incontro e sussurrarci: «Figlio mio, io non ti ho mai promesso che se ti fossi arreso, pentito e messo a posto con me avresti ottenuto, oltre al risveglio, una situazione più tranquilla, più successo e dinamismo nel tuo servizio. Quello che ti prometto è che, se camminerai con me, concedendomi di mostrarti il peccato non appena si presenta e di purificarti da esso, tu avrai non queste cose, ma me, fa di me il tuo traguardo ed esso non ti sfuggirà, e sarai soddisfatto perché avrai tutto ciò che Dio vuole darti. La cosa biasimevole è questa: quando arriviamo a capire tutto ciò, ne rimaniamo un poco delusi, dovendo ammettere che in realtà non era tanto lui che cercavamo, quanto piuttosto i suoi doni, per delle ragioni egoistiche ed ambigue. Ecco perché egli non ce le ha concessi. Questo è il punto. La via di Dio per eccellenza è in mezzo al mare perché è piena di difficoltà. Risolte da lui, e questo modo di procedere non è un capriccio divino, ma è per indurci a ricercare il vero ed unico valore che è Cristo. A un cuore che crede non resta che cadere in ginocchio e adorare, servire, amare il dono ineffabile di Cristo Gesù. Aprile 2006. Ellero.